Questa frase, pregate il Signore perché mandi operai per la sua messe, è una frase che ci accompagna da sempre. E facciamo bene a continuare a pregarla. Però, se non vi scandalizzate, io la integrerei. Non scandalizzatevi, non voglio correggere il Vangelo, voglio cercare di capirlo. Io è da un po' di tempo che prego il Signore: Signore, manda nel tuo popolo dei grandi imprenditori, dei grandi dirigenti, dei grandi statisti. Signore, manda nella tua Chiesa dei grandi dirigenti, dei grandi statisti, dei grandi imprenditori, che sono i santi, anzitutto. Perché se noi guardiamo la storia della Chiesa, i poveri ci sono sempre stati ed è sempre fiorita una carità spicciola, una carità di quartiere, una carità da porta a porta, ma sono sempre fioriti anche i grandi giganti della carità. San Vincenzo de Paoli, Santa Teresa di Calcutta, ma in tutta la storia. I ragazzi da educare ci sono sempre stati, quanti ordini femminili, me ne viene in mente uno, le canossiane, sono sorti, le suore Dorotee, dicemmo, sono sorti per educare le figliuole, le chiamavano, le fanciulle, ma sono diventati dei santi che hanno messo in piedi veramente delle. E poi il Signore in questi ha inserito dentro anche i vescovi e i papi. Non sono in contrapposizione come tante volte noi facciamo, perché San Carlo è stato un grande santo e un grande vescovo. E gli ultimi papi? Sembra che lo Spirito Santo ce ne metta lì uno dopo l'altro come una corona del rosario, uno santo, l'altro beato, l'altro santo, l'altro. Ma tutti, fateli passare da Pio XII a oggi, non ce n'è uno, compreso amici, perché mi spiace che mi dicano il tal canale della RAI ha trasmesso contro Papa Francesco, mi dispiace, è un santo come gli altri ed è un profeta e lo dirà la storia. Quindi, Signore, mandaci operai per la tua messe, mandaci dirigenti, imprenditori, santi per la tua messe, ma permettete che io vada avanti ancora un minutino perché io sono anche cittadino del mondo e mi dispiace che tanta gente patisca la fame e mi dispiace che tanta gente vada alla malora perché ci sono pochi imprenditori, pochi dirigenti, pochi capitani d'azienda che ho visto ditte sorgere e fallire a causa di gente incapace. Ho visto ditte, società che oggi detengono la ricchezza mondiale nascere in uno scantinato, ma 10 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa. Nascere in un garage e oggi sono tra i più ricchi del mondo. È la genialità di Dio, anzi sì, dello Spirito Santo, che prende abitazione in persone e che permette, pigliamo un altro settore, gli scienziati, la penicillina, oggi sono antibiotici o altre medicine, o altre soluzioni tecniche di interventi sul corpo umano. E allora dico, Signore, noi guardiamo a te che sei il nostro Dio creatore e poi guardiamo al popolo di cui noi pure siamo figli. Guardiamo al popolo del mondo, della Chiesa, del mondo e diciamo, Signore, manda io li chiamo i tuoi servitori, che siano operai, che siano dirigenti, che siano santi, che siano funzionari, che siano fondatori di start-up, che siano persone. Signore, il popolo, il mondo ha bisogno dell'effusione dello Spirito Santo. E fa anche di noi, se non siamo dirigenti, se non siamo imprenditori, fa di noi degli onesti e buoni operai del tuo regno.